è tutto pronto per aprire questo venerdì 9 febbraio, perché è un venerdì ricco non solo di musica ma anche e soprattutto di ospiti. E siccome chi fa da sé fa per te, facciamo spesso anche per tradizione un passo indietro e due in avanti, andremo a scoprire le novità legate al primo ospite di questo format, che saluto subito, un buongiorno, un bentornato, Massimo Benassi. Sì, eccomi qua, ciao. Sono felice di essere qui di nuovo con te, è un piacere. Grazie, grazie a te davvero. E questo riguarda il primo passo dei due in avanti, che ovviamente si poi prospettano, perché c'è un raddoppio verso un futuro prossimo, perché con l'uscita ufficiale del libro fresco di stampa del Friday Night Blues, è un passo, il raddoppio è l'evento di questa sera che vede sul palco un artista a tutto tondo che è sempre qui con noi, Enrico Cifiello, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, sono davvero tante le novità e le storie da raccontare, ma partiamo però subito con un aggiornamento, Max, perché ci eravamo lasciati praticamente alla fine di settembre con l'esordio della sesta edizione del Friday Night Blues e finalmente il libro fresco di stampa appena uscito. Raccontaci le novità, come sta andando, cosa è successo in questi mesi? Beh, intanto è successo che stiamo andando molto bene. C'è una risposta sempre in crescita e questo, insomma, è l'obiettivo primario sostanzialmente quando si organizzano delle serate che hanno anche lo scopo, per quello che ci riguarda, di riuscire a vivere questa passione della musica e riuscire a trasferirla. Quindi più gente c'è e più comunque significa che stiamo veramente facendo bene, ok? Quindi il primo risultato che ci portiamo a casa positivo è esattamente questo. E quello ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. E non avevamo dubbi, aggiungo. Beh, però sì, non avevamo dubbi, perché non bisogna averne, bisogna essere positivi. Fuori discussione. Poi è chiaro che poi i conti si fanno. Beh, sempre certo. Alla fine. Anche perché qui, insomma, raccontiamo una storia che condivide ovviamente insieme ad Irene, compagna non solo di palco ma anche di vita, e quindi bisogna esserne fieri. Certamente lo siamo, fidati, proprio è una cosa. L'entusiasmo, quello è sicuramente sullo sfondo di ogni evento che create. Assolutamente sì, e come poi hai potuto vedere, Irene è una forza, lei ha questa spinta, questa creatività, questa passione che poi dopo magari sta un po' più in ombra, però quando viene fuori prepotentemente, anche perché come hai potuto vedere il libro, adesso tra l'altro fra poco faremo la presentazione ufficiale, quindi in primavera sostanzialmente faremo una serata dedicata alla presentazione del libro, che adesso è finito, stiamo andando in stampa, abbiamo fatto le ultime correzioni da settembre, però siamo veramente molto soddisfatti. Benissimo, e la soddisfazione più grande per me è avere qui te insieme all'artista che questa sera, sempre ovviamente all'Hotel Bellaria, Relais Bellaria, nella serata del Friday Night Blues, vedrà appunto Enrico Cifiello come protagonista e come voce calda, suadente, e veramente un artista completo. Allora, tu sai che, te ne abbiamo già parlato, il nostro obiettivo è fare le grandi voci, quindi noi abbiamo una trentina di serate nell'arco della rassegna e queste serate sempre di più andiamo a cercare quelli che sono le voci veramente grandi, e Enrico non poteva assolutamente mancare. Infatti lui è venuto l'anno scorso e torna questa sera insieme a una band eccezionale, magari dopo lui te ne parlerà anche in maniera più specifica dei musicisti che lo accompagneranno, e quindi è un grande piacere perché sono sicuro che sarà un successo. Beh, allora adesso diamo la parola ad Enrico e vediamo se testimonia e conferma quanto detto da Max a questo punto. Tu, Max, girati, non ascoltare. Innanzitutto grazie per i complimenti, Max. Allora, tu che hai vissuto in prima persona sul palco l'esperienza al Friday Night Blues, sì, puoi confermare che, insomma, si è coccolati dall'inizio alla fine? Sì, guarda, ti garantisco che ne parlavamo anche prima di venire in radio, che è un piacere veramente lavorare in un locale del genere, perché Max, oltre ad essere musicista di esperienza che è, e non solo, ha portato a un livello veramente eccelso il Friday Night Blues. Perché? Perché lui educa la gente alla grande musica, perché lui praticamente produce solo musica vera, come si dice, no? E quindi è un piacere per me essere lì con la band, perché è un locale dove si vive un'atmosfera veramente particolare. L'anno scorso, posso dirlo, era come essere negli Stati Uniti, visto che è una cosa che a me succede, grazie a Dio, di lavorare con gli americani, cantare con gli americani. Nel Friday Night Blues c'è questa atmosfera ed è veramente unica, perché essere in Italia e avere quell'atmosfera, secondo me, è veramente qualcosa di impagabile. Sì, poi sicuramente vorrei approfondire anche la tua carriera, perché insomma praticamente da quando sei piccolissimo che sì. canti e esordire a 13 anni a Sanremo sì. cantando vuol dire che la tua carriera è praticamente già arrivata a 13 sì. anni. Venni catapultato a Sanremo. Esatto, quindi quando raggiungi già praticamente uno step di questa portata, vuol dire che insomma, è stata un'occasione veramente simpatica. Chiaro che l'artista si doveva ancora formare, ovviamente, però è stato veramente un'emozione. Poi vabbè, Sanremo sempre Sanremo, no? Questa per esempio è Kiss, un riarrangiamento di Kiss, di Prince, e noi allora ascoltiamocelo subito. Ok, vai. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your phone, baby, from dusk till dawn. To turn me on. I just need more on to me on the show all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In no particular size you're more compatible with. I just want your head, your time, and your kiss. About a dance now. You got to know, talk to this baby. If you wanna practice me, I can't be a fit in my mind. I know what to undress me. I wanna be your fantasy. So maybe you could be mine, yeah. Che sembra quasi essere nato per altro in realtà. Bel live. un bellissimo live. Beh, ricordi, sì. E mi dicevate che c'è anche un video, sì, molto particolare, sì, sì, sì, legato, è stato, a questo brano. Era un live registrato da, appunto, vabbè, live dal vivo, ed era stato filmato proprio un DVD. Cosa si vede in questo video? Un concerto vero e proprio. Ci sono poi tutti i video su YouTube, basta cercare Enrico Cifelio, lì ci sono varie cose di cui è possibile trovare anche Kiss. Adesso Max, non voglio tirarti sempre in ballo, però non voglio lasciarti così in un angolino, anche perché in realtà tu compari in questi brani. Allora, io ho avuto il piacere di comparire, perché con Enrico è una storia antica. Antica perché io mi innamorai quando lui era un poco più che ragazzino, appena aveva fatto poco, 2 anni dopo che fece il Festival di Sanremo, e ebbi l'occasione di ascoltarlo dal vivo. Casualmente mi sono completamente innamorato e dopo abbiamo avuto vari trascorsi, tra cui abbiamo fatto tante cose belle insieme, tanti bei ricordi, devo dire, veramente. E per cui in quell'occasione chiamò, oltre altri tanti musicisti, per fare quella versione di Kiss che hai sentito, perché eravamo almeno una decina sul palco, tra fiati, batteria, basso, chitarra, piano e via discorrendo, e ha fatto, filmato tutto con più telecamere. Era abbastanza avanti, perché oggi si fa questa cosa, lo fanno tutti i ragazzini, fanno i live in studio, sì. Questo era di fatto un live in studio. E comunque ricordiamo, è un brano di 10 anni fa. 10-11 anni, 2-6-2-7 direi. Non ricordo più. Vabbè, più o meno comunque a livello di avanguardia anche video. Esatto, questo intendevo, che adesso col senno di poi era molto avanti, capito? Anche l'idea, che era sua dello, tra stato, l'altro, che era quella di dire facciamo sentire dal vivo, capito? Cioè, però registrato molto bene, con dei video fatti molto bene, montati bene, cos'è questo live che può fare Enrico, capito? Questa, okay, era un'idea avanti, onestamente, vista adesso. Che tu dall'Italia poi hai trovato la tua fortuna in America. Diciamo, adesso fortuna sarebbe una parolona, però una bellissima via musicale, senza dubbio. Lavorare con gli americani è un grande privilegio per me, pubblico veramente caldo e con grande cultura musicale, e quindi insomma quello che faccio è lavorare spesso all'estero, anche su una vita crociera, dove mi esibisco con le big band e faccio il mio show, il mio spettacolo, il mio concerto. Quindi chissà che lo spirito americano non ti ha aiutato a partorire poi questa idea degli stacchi, sì, musicali. Senza video. Dubbio, senza dubbio, sì. Allora io sono molto, certo, curiosa, quindi vorrei subito già ascoltare il prossimo brano che faremo stasera. Faremo, sì, questa sera, sì, al Friday Night Blues. I'm torn down, I'm almost level with the ground. I'm torn down, I'm almost level with the ground. Yeah. Well, I feel like this when my baby can be found. I went to the river to jump in. My baby showed up and said, I would tell you when. Well, I'm torn down, almost level with the ground. Yeah. Well, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love in the morning and the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm torn down, almost level with the ground. Yeah. Well, I feel like this when my baby can be found. Out of sight. I'll write for you if you want me to. I really don't believe that love is true. Well, I'm torn down, I'm whole nose level with the ground. Yeah, yeah, yeah. Well, I feel like this when my baby can be found. When my baby can't be found. Yeah. Beh, al Friday Night Blues il blues non può mancare. No, decisamente no. Sia a livello ovviamente musicale che di sensazioni, di emozioni. Verissimo, torniamo sì, un certo. po' alle origini. Sì. Quindi sì. il nuovo contatto con l'artista e il rispetto per l'ascolto della musica. Sì. Potrei dire un bellissimo sapore, che sia sapore in questo locale, che è il Friday Night. Sì, bellissimo. Una bella cosa. Cioè, anche essere su quel palco ti dà gioia. È veramente un'atmosfera unica, devo dire, molto bella. Quindi questa sera da che ora? Direi intorno alle 10:30. Allora, prendo la parola giusto per essere più preciso, nel senso Grazie. Che lì chi vuole venire a cena dalle 7:30 può venire, cena buffet, fantastica, a cura dello chef nuovo Giuseppe Tarantino, fantastico, abbiamo fatto veramente un salto di qualità incredibile. E poi dopo fino alle 10 si cena, 10:15, alle 10:15 c'è la presentazione, la sigla e a quel punto entra in ballo l'artista di questa sera, che sarà chiaramente Enrico, e col suo repertorio mirato proprio per il Friday. Ok, vedo poi al basso Andrea Taravelli al basso, alla batteria Lele Veronesi, al piano Luigi Scerra. E sono artisti con cui hai già collaborato? Sì, abbiamo fatto già tante cose, sono anni che suoniamo insieme, c'è una bella alchimia, devo dire. Un bel feeling. Quindi vediamo insomma in scaletta brani storici che vanno appunto da Michael Jackson, Sting. Esatto, ci tengo a dire che sono tutti brani famosi, chiaramente sono cover, ma suonano quasi come un brano nuovo. Perché? Perché sono, a mio avviso, riarrangiati in un modo interessante. Quindi lo spettatore ha modo di godersi una canzone famosa, ma con uno stile mio, esatto, un arrangiamento creato, diciamo, sul adatto a me. Ecco, ma una volta che tu riarrangi un brano e lo reinterpreti, poi lo battezzi e diventa quello, oppure ti piace spesso sperimentare, modificare più volte lo stesso brano? Bella domanda. Diciamo che succede, anche se una volta scritta la parte rimane all'80% quella, fino a che non decidi di magari rielaborare qualcosa. Che succede? Per dire, ieri nelle prove è successo questo, abbiamo fatto delle modifiche su uno dei brani che faremo stasera. Quindi all'ultimo proprio... pezzo di Al Jarreau, si chiama Morning, bellissimo. Abbiamo rifatto il groove oggi con l'aiuto di Lele. Allora, per esempio, un brano che possiamo prendere è Every Breath You Take, immagino anche qui tu abbia reinterpretato Sta completamente rifatta, quindi ha diciamo è molto lontana dalla versione di Sting, come... si può ascoltare, diciamo. Allora sentiamo. Va bene. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? To me, I'm a bird on the race. With every step you take, every move you make. every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Passo indietro e due in avanti per riprendere una storia di musica, passione e magia. L'uscita del libro del Friday Night Blues è un artista che vede collegarsi la propria vita anche a Massimo Benassi, e lo potete trovare questa sera in concerto proprio al Friday Night Blues. Stiamo appunto raccontando la passione, l'emozione di queste serate, e devo dire che anche la cortezza da parte sia di Max che di Irene di dare l'importanza per esempio anche ai fotografi che sono sempre presenti nelle serate dà un tocco di classe in più alla scena. Allora, questa è stata a parte una bella scelta azzeccata, come dici tu, anche la fortuna di aver trovato delle persone straordinarie in termini anche di qualità di fotografie, perché foto è come dire musica, nel senso che poi devi entrare in un dettaglio e ci vuole anche la capacità di riuscire a trasferire le immagini e farle diventare emozione e passione. È la stessa cosa, è un'arte anche la fotografia, e noi abbiamo tre persone fantastiche che sono i Maurettieri, perché si chiamano tutti e tre Mauro, Mauro Cionci, Mauro Montanari e Mauro Bastelli. I Maurettieri Moschettieri, se mi ricordo. Sì. E loro sono delle persone straordinarie e dei fotografi bravissimi, con ognuno con il suo stile personale, per cui è una gioia averli. Benissimo, questa è una delle cose che dà anche più soddisfazione, tra artisti ci si riconosce. Poi la foto è qualcosa, come ha detto Max, è arte, e ferma un momento che il video non può dare, no? Ferma un attimo che può essere storia, no? Per un artista e anche per chi vede lo spettacolo, è una cosa bellissima veramente. E questo è importante sapere che è possibile, anche perché spesso quando per esempio un artista si mette nei panni del dell'organizzatore dei eventi e viceversa, si vanno a scoprire delle nuove lacune, piuttosto che si riesce ad enfatizzare dei lati che altrimenti andrebbero persi, e questo è sicuramente un valore aggiunto. È veramente un valore aggiunto, esatto. Benissimo, allora siamo già praticamente alla conclusione della prima mezz'ora, quindi ci salutiamo con Just the Way You Are e vi anche lasciamo un attimo alla pubblicità, poi torniamo su. Rifatta. Anche questa reinterpretata, esatto. Con un intro di piano, pianoforte, molto sì. Perché jazz. Ricordiamo che tu, oltre a essere compositore e cantante, sei anche pianista. Diciamo non pianista, ma suono per comporre, quindi diciamo che mi arrangio nel, ti arrangi nell'essere un arrangiatore. Esatto. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Oh, don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Oh, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care.